5G. Ascolta e rispondi. Hai letto tutti gli articoli del giornale? No, ne ho letti solo alcuni. Hai studiato bene tutti gli argomenti in programma? No, ne ho studiati bene solo alcuni. Hai risolto tutti i tuoi guai? No, ne ho risolti solo alcuni. Hai conosciuto tutti gli invitati? No, ne ho conosciuti solo alcuni. Avete fatto molte cose oggi? Sì, ne abbiamo fatte proprio molte. Avete mangiato molte specialità? Sì, ne abbiamo mangiate proprio molte. Avete tradotto molte pagine? Sì, ne abbiamo tradotte proprio molte. Avete scritto molte lettere questa settimana? Sì, ne abbiamo scritte proprio molte.